gente, gente divertente, fatevi prendere dai per un momento, liberati dallo stress e dal tormento, libera l'anima da, da tutti i limiti che condizionano te e i tuoi simili, lascia la carica scorrere nelle tue vene, forse lasciandoti andare magari conviene, io dico che ti conviene e certamente libera l'anima, il corpo e anche la mente, cerca di guardare il mondo con gli occhi più aperti, cerca di fare qualcosa che ti diverti, muoviti, muoviti! Muoviti, muoviti, e allora muoviti, muoviti. Niente è finito, lo sai, finché ci sei, puoi cominciare anche subito, io lo farei. Muoviti, muoviti, nei, che il tempo vola, finché la musica va, non sei mai sola. Questi sono gli anni 90, amico mio, e io tanta sono finiti, e grazie a Dio, il vuoto lasciato alle spalle è molto grande, siamo scoperti oramai, e le mutande che ci coprivano un po', sono cadute, tutte le vecchie realtà sono finite. Muoviti, muoviti, e allora muoviti, muoviti, comincia a muoverti, muoviti. Guardando la faccia alla gente, sento nell'aria qualcosa di molto importante, crescono gli interessi verso le cose che fioriranno, lo sai, se sono rose. Credo nell'uomo futuro, figlio di un mondo che mi spaventa un po' e non lo nascondo, ma non nascondo neanche la voglia che ho di dare un posto decente alla figlia che ho. Forse un giorno, fra un mese, fra vent'anni, non sarà giusto che lei paghi i miei danni. Muoviti, muoviti, e allora muoviti, muoviti, comincia a muoverti, muoviti. Certamente libera l'animo, il corpo e anche la mente, cerca di guardare il mondo con gli occhi più aperti.